Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. E se qualcuno si fosse preoccupato perché il sabato del villaggio non c'era? No, c'è, comincia solo un pochino più tardi, grazie a chi ha mandato messaggi al 349-238-6666 via SMS o via WhatsApp. Semplicemente per qualche settimana lasciamo spazio a Dylan Dog, a chi ci precede, solo per qualche settimana andiamo in onda dalle 15.30 in poi, ma poi stiamo sempre insieme fino alle 18 con il sabato pomeriggio di Radio 24, come sempre il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. C'è tutto, c'è comunque tutto. In questa prima mezz'ora parleremo con il nostro gastronauta. La scorsa settimana c'era caduta la linea, no, ma questa settimana l'abbiamo recuperato. Ma partiamo invece con una musica che ci parla di volo. Ce l'abbiamo? Parliamo di volo. Wish I could fly, come mi piacerebbe volare, cantava quel figo di Lenny Kravitz. Si può volare? Ultimamente va molto di moda parlare di droni e noi lo facciamo con il nostro Enrico Pagliarini. Questa volta lo so dov'è, è collegato da un posto nel quale vorrei essere anch'io se non fossi in diretta. Ciao Enrico! Buon pomeriggio a tutti, ciao! Ecco, allora ci devi svelare questa volta dove sei. La scorsa volta avevi detto che ti avevano detto di non dirmi mai dove ti trovavi. Quando ti collegavi, lo dico, questa volta sì. Lo devi dire. Allora, sono alla Fiera di Modena perché qui c'è Drone Italy, la terza edizione di Drone Italy, che come dice il nome è una manifestazione creata attorno ai droni. I droni sono questi oggetti che assomigliano a degli elicotteri con tanti rotori, molti li avranno visti, ci sono i droni giocattolo, ma c'è tutto un settore professionale che è nato negli ultimi anni, dal mondo della fotografia, del cinema, mondo professionale per far tante altre cose. Insomma, il mondo dei droni sta crescendo. Questa è una fiera che sta crescendo e a fianco a me c'è Sergio Barlocchetti, che è uno dei fondatori di Drone Italy. Ciao Sergio, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, faccio subito una domanda a Sergio, poi tu Marta, se vuoi intervenire, fallo pure in tranquillità. Allora, innanzitutto diciamo che noi siamo a fianco ad una pista dove si sta svolgendo, anzi direi la pista più grande d'Europa, dove si sta svolgendo una gara di droni, e svegliamo subito che cos'è. È una dimostrazione di gara, in realtà, della nuova disciplina, una delle ultime nate in questo settore, che si chiama FPV, First Person Viewing, e si tratta di pilotare dei droni muniti di una videocamera da parte di un pilota che indossa degli occhialini e vede ciò che vede il drone. In pratica è come se fosse la Formula 1 dei droni. Lo scopo è andare più veloce di altri facendo un percorso con degli ostacoli, con delle virate, ed è una diciamo così, una specializzazione, una specialità sportiva che soltanto da pochi mesi la Federazione Aeronautica Internazionale ha riconosciuto insieme alle altre, diciamo, dell'aviazione, quindi insieme al paracadutismo sportivo, all'acrobazia aerea, al volo a vela, a delta e parapendio e quant'altro, mongolfiere eccetera. Da poco tempo c'è anche la FPV, che è una delle 12 specialità dell'aeromodellismo. Ecco, stiamo parlando di aeromodellismo, giusto? Esatto, è una delle categorie dell'aeromodellismo, però è molto, anche molto di più, perché per scegliere l'elica giusta, la batteria giusta per battere l'avversario, bisogna comporre il drone migliore per quella gara, e quindi che sia magari più veloce o più manovrabile, un po' come la Formula 1, è più importante fare bene le curve o è più importante andare veloce in rettilineo. Ebbene, si arriva a 130 km orari in gara indoor, e quindi i riflessi del pilota devono essere veramente alti, e gli skill per poterlo costruire sono molto alti, anche a livello di meccatronica, quindi non solo di pilotaggio, ma queste squadre sono composte da ingegneri, da tecnici, da appassionati, insomma. Senti, Marta, dimmi. Enrico, no, io avevo una curiosità, perché intanto stavo guardando il sito della manifestazione, diciamo che è solo ieri e oggi, quindi chi fosse a Modena o in zona e fosse interessato deve andarci subito nel pomeriggio. Sì, abbiamo parlato di modellismo e di droni professionali, però immagino che molti ascoltatori si stiano incuriosendo anche dei droni così tra virgolette domestici, perché ormai si regalano, si comprano anche un po' per hobby. Ma com'è la situazione? Perché tante volte mi hai detto non sono usare tutti uguali. Prudenza, ecco, usare ecco, la prudenza. Ecco, allora, stiamo parlando di cose che volano e quindi bisogna usare la prudenza. Però Sergio, che oltre che essere esperto di droni, è un pilota d'aerei, quindi è uno che ha dedicato parte della propria vita, se non tutta la vita, agli aeroplani e a qualcosa che vola. Sergio, se uno se lo vuol comprare? Lo può acquistare serenamente. Ormai anche l'Europa ha definito che cos'è un giocattolo drone, che cos'è un aeromodello e che cos'è un drone professionale. Naturalmente le dimensioni e le prestazioni sono diverse. Consiglio a tutti che vogliano divertirsi di partire dal giocattolo e quindi di fare del hobby magari un domani una professione. La professione in ambito agricolo, in ambito ricerca e soccorso, in ambito rilevamenti, in ambito geologia c'è. Il mercato esiste e poi soprattutto non ci sono soltanto i droni che volano. E in questi padiglioni ce ne sono anche diversi, per esempio nautici, che servono per fare studi batimetrici piuttosto che così estendere, come dico sempre, i nostri sensi dove fisicamente è meglio che noi non andiamo per sicurezza. Quindi giocate coi droni, comprate i giocattoli, informatevi delle regole, frequentate i campi di volo e cominciate a divertirsi. Ti faccio una domanda sui prezzi. Allora, se uno vuole giocare, può giocare spendendo poco e soprattutto diciamo anche che può giocare, ma deve giocare o in casa, in cortile, non è che può andare in piazza o al parco. Certo, allora a parte i posti delegati per giocare, anche i costi da 30-40 euro in su, addirittura fino a 200-300 euro sono giocattoli. Da 300-400 euro fino a 700-800 euro cominciano a essere aeromodelli, se no la famosa crossover, la classe che è un po' consumer e un po' pro, diciamo, e poi si va verso il professionismo. A fare il drone e il professionista del drone è il sensore e la post produzione del sensore. Quindi giocare in ogni caso si può. Chi volesse cominciare, cominci pure, faccia pure i suoi video a livello personale, non voli mai sulle persone, mai in zone così urbanizzate, per esempio, vada in campagna, vada dove può, ma soprattutto non posti poi su canali YouTube ciò che riprende, insomma se lo tenga per sé per giocare con gli amici, perché c'è un problema anche di privacy che va rispettato. Sì, non certo. Andate davanti alla finestra del vostro vicino di casa e gli fate il video. Sì. Ecco. Enrico, qualche giorno fa mi raccontavano che molto più spesso, ad esempio, sempre più spesso le spose vogliono nel loro servizio fotografico le riprese con il drone, quindi immagino che anche i fotografi si vogliano e si attrezzino sempre di più con i droni. Sì, ma sì. Si può fare? A proposito di privacy, di eccetera. Sì. Allora, anticipo una parte della risposta, poi Sergio Barlocchetti è molto più bravo di me. Allora, questo è uno dei primissimi temi che si è affrontato quando si è cominciato a parlare qualche anno fa di droni. Si può fare, sicuramente il mondo della fotografia, dei video è stato uno dei primi che ha cominciato ad utilizzare i droni anche a livello professionale. Si può fare, basta però che il fotografo sia un professionista, che abbia permessi, che abbia macchine serie. Sergio. Esattamente. In questo caso l'operatore del drone deve essere un operatore riconosciuto dall'Ente Nazionale Aviazione Civile. Questo è necessario tutte le volte che ciò che riprendiamo è destinato a essere mercimonio, quindi se ci facciamo pagare, okay. Non si può comunque nemmeno farlo gratis qualora si voli sulle persone o in determinati scenari. Quindi chi volesse arruolare un fotografo, diciamo, con il drone deve assicurarsi che costui abbia il permesso di volo da parte dell'ENAC, sia registrato e abbia l'assicurazione, perché migliori sono le immagini, tanto più grande è il carico utile, quindi la macchina fotografica e quindi il peso del drone che sta volando. Sì, purtroppo dobbiamo anche dire che ci sono un sacco di, su questo è difficile avere dei numeri, però ci sono anche persone che lo fanno senza i permessi adeguati, senza le macchine adeguate, quindi bisognerebbe sincerarsi che il professionista faccia questa cosa. È facile però, perché sono tutti online. L'ENAC, sono registrati, sì, l'ENAC ha un file online dove uno può verificare se il signor Tizio Tal d'Italia è autorizzato e abilitato. Una domanda sugli usi professionali, perché abbiamo parlato dei fotografi, quelli che fanno i film, però tu ci hai citato l'agricoltura, che è un settore dove vedo che sta esplodendo l'uso dei droni. È molto importante per l'agricoltura, perché si riesce a identificare il vigore, lo stato di vigore di una coltivazione senza dover contaminare con per esempio un farmaco tutto il campo. Quindi oggi riusciamo per esempio a sapere se il barolo del prossimo anno sarà buono oppure no, al di là poi della meteorologia dell'anno dopo. La stessa cosa per il riso e per molte altre coltivazioni. I sensori in questo caso non sono fotografici, sono multispettrali, e la risposta, diciamo, che la natura ci dà a questo esame ci consente di elaborare delle immagini e quindi di capire se alcune zone di un campo devono essere trattate piuttosto che no. Questo vuol dire anche che se c'è un infestante, questo infestante può essere battuto non contaminando tutto il campo, ma facendo dei bombardamenti mirati, diciamo, no? Quindi anche tutto più sano, volendo vedere. Sì, la famosa agricoltura di precisione. Esatto. Poi ci sono molti altri campi che stanno venendo fuori, da quello sportivo, per esempio. Sappiamo che il Napoli Calcio è un utilizzatore quasi costante dei droni durante gli allenamenti per studiare le posture dei giocatori. E poi abbiamo molti altri diciamo così campi. Uno di quelli è la ricerca e soccorso, per esempio. Qui viene presentata un'applicazione interessantissima che vede praticamente l'installazione di una microcella telefonica sotto un drone. Quando c'è una valanga e ci sono delle persone sepolte, si è notato che le persone hanno tutto il telefono acceso, ma nessuno prende, perché evidentemente non c'è campo. Bene, si porta al campo e in 40 secondi, fino a 2 metri di precisione, si localizza lo scomparso. Quindi, creo un hotspot, creo un'antenna telefonica. Esatto, perché questo è stato proprio un'opera di miniaturizzazione della cella, da un lato, e dall'altra di resa di compatibilità alle basse temperature, perché questi mezzi sono elettrici, e quindi una delle cose che mandano in crisi le batterie sono proprio il delta di temperatura. Insomma. Certo, ricordiamoci che se uno si compra il drone deve ricaricare la batteria anche del drone, cioè ormai siamo pieni di batteria da ricaricare. Sì, Enrico, io ho visto, ho scorso un po' i titoli delle conferenze che ci sono state a Drone Italy, ma perché droni nei supermercati? Questo non lo so, io lo sa Sergio Barlocchetti. Allora, intanto siamo per radio, e uno degli utilizzi, per esempio, dei droni è il controllo degli impianti di antenna che vi irradiano, che lanciano il segnale. Dopo 10 anni che le antenne prendono le intemperie, si fa un giro con il drone e si vede come stanno e qual è da sostituire piuttosto che no. Perché droni nei supermercati? Perché non essendo ancora entrata in vigore la normativa europea con delle classi, avremo dei bollini sui droni a seconda della loro categoria e delle fasce di età a cui si potranno usare, età minima, è evidente che il fatto di poter vendere al supermercato, al grande magazzino, anche droni utilizzabili in modo professionale crea una certa preoccupazione nell'autorità aeronautica, perché di fatto un padre può regalarlo al figlio pensando di fargli un regalo, questo va a volare magari nella vicinanza di un aeroporto e può fare un danno. Quindi dove possono essere. Sì. Attualmente comunque io veramente invito tutti che volessero avvicinarsi a questa specialità, disciplina, ad andare in una delle X, ormai sono tantissime, scuole approvate dall'ENAC, e al limite di fare il corso, almeno il corso teorico, anche se volesse giocare, per esempio, sono soldi ben spesi, perché si ha almeno un'idea di come è organizzato lo spazio aereo, di vedere dove non andare a far danni. Certo. Allora Marta, non so quanto tempo ci è rimasto. Comunque un minuto e mezzo. Ci siamo spostati nella zona di gara, ci eravamo un po' allontanati perché c'era un po' di confusione. Ho sentito bambini che vuol dire che si stavano divertendo. Sì, ci stava inseguendo un bambino che stava piangendo. E adesso noi ci siamo spostati nell'area di prova. C'è questa pista che, ripeto, è la più grande d'Europa, molto bella, dove ci sono degli archi, Sergio, e i droni devono passare sotto questi archi. C'è proprio un percorso vincolato. Esatto, il percorso è vincolato, e qualsiasi scostamento, esattamente come avviene con lo sci e con la canoa, comporta durata delle penalità. Naturalmente il primo che arriva è quello che vince, quindi è una gara di velocità, dimostrazione almeno di gara di velocità, e soprattutto poi ci sono una serie di sensori che captano il passaggio del drone, quindi al millesimo di secondo rilevano le velocità. Attenzione che nell'arco di 30, 40, 100 metri di ampiezza stiamo parlando di 130 all'ora di oggettini che pesano 110, 120 grammi, e quindi delle schegge. Sì, sì, è un po' come abbiamo visto tanti anni fa la gara degli sgusci di Guerre Stellari, esatto, uno esatto. Se la può rifare. Se qualcuno fosse a casa davanti al computer, se digita FPV Racing su YouTube, può vedere che cosa vede veramente il pilota e capire quali reazioni istantanee bisogna avere. Molto bello, molto bello. Non è semplice, esatto. Sì, sì. Enrico, ci fai una cortesia, visto che sei lì, facci qualche video e mandacelo, caricalo, twittacelo, così noi lo diffondiamo. Sono molto curiosa. Lo farò adesso appena i droni si alzano in volo, perché Bravo. Stiamo aspettando il via, un po' come poco prima della Formula 1, ci si sta preparando ai box e fra poco c'è il via. Dai, perfetto, così quando c'è il via ci mandi qualche filmato, sono molto curiosa. Grazie. Beh. Enrico Pagliarini. E grazie a Sergio Barlocchetti per la disponibilità qui a Drone Italy. Grazie, a presto. Sento che sta partendo qualcosa, noi ci ritroviamo tra poco dopo la viabilità. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presenta Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il nostro sabato del villaggio. Appunto, gli orari sono un pochino cambiati, almeno temporaneamente, quindi con una mezz'ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia ordinaria, ma insomma non può mancare il nostro gastronauta. Ciao Davide. Ciao Davide. Ciao, Paolini. Buona giornata. Allora, diciamo che quando ti dico che è quasi orario di merenda, questa volta invece con questo orario nuovo è orario di merenda piena, ma so che la tendenza di questa settimana non è relativa alla merenda, ne abbiamo già parlato. Davide, di cosa ci vuoi parlare questa settimana? Ma io voglio parlare di una tendenza che è già un po' di tempo che sta così invadendo i ristoranti, le trattorie, ed è la battuta di carne cruda. Bene, un tempo veniva chiamata semplicemente carne cruda, oggi invece è battuta a coltello. Cosa significa? Significa che quel pezzo di carne, che può variare, ma di solito è un girello di fassone, poi spiegherò cos'è il fassone, oppure anche difesa, viene tagliato veramente a coltello, molte volte anche in presenza del commensale, dal ristoratore, oppure già preparata dal macellaio, e poi viene condita a seconda dei vari piaceri. C'è chi mette capperi e senape, chi mette solamente un goccio d'olio con un po' di sale, e ormai diciamo che veramente, nonostante siamo in un periodo in cui si consuma meno carne, però andando in giro nei ristoranti devo dire che se uno guarda un po' sui tavoli vede che la battuta a coltello, specialmente di carne, del girello di carne fassona. La carne fassona cos'è? È una carne piemontese, è una razza piemontese molto conosciuta, molto nota e diciamo molto prelibata. Diciamo che quando c'è a Carrù la manifestazione del bue, grasso, insomma, si mangiano battute a coltello a gogo, come si dice. Quindi, Davide, devo chiederti subito una cosa, visto che tu sei un esperto e noi vorremmo imparare a utilizzare i termini nella loro giusta accezione. Noi spesso parliamo di tartare, ma è la stessa cosa la tartare? È un sinonimo oppure è un tipo particolare? Mi chiarisci questo? Beh, la tartare delle volte non viene, diciamo, tagliata a coltello davanti, la tartare viene preparata, viene già preparata, e quindi molte volte viene anche macinata, diciamo, con un mezzo meccanico invece che col coltello. Quindi sono due cose leggermente diverse, anche se vogliamo essere sottili. Insomma, la tartare è è molto più battuta, diciamo, finemente, la tartare rispetto alla carne cruda, diciamo, di fassone battuta a coltello. Proprio questo discorso della battuta a coltello è proprio che dovrebbe essere fatta visivamente, cioè in presenza.

o sono sotto sale, oppure sono messi nell'olio, oppure si sente questo retrogusto quasi acetoso. Che meraviglia. È difficilissimo. Che meraviglia. Forse torno indietro. L'abbinamento con cappe di senape lo farei col pino nero, dritto fresco. Fantastico. Davide, ci dobbiamo salutare su questi capperi, questo un po' di odore di mare. Niente, me lo sto immaginando. La prossima settimana parliamo di tartufo? Ce l'ho visto che era una delle tue proposte? Certo, cominciamo i tour del tartufo. Cominceremo dal Piemonte, poi andremo nelle Marche e poi andremo anche nel Molise. Quindi faremo una serie di tour perché siamo in pieno periodo straordinario. Ciao Davide, noi ci risentiamo tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Il sabato del villaggio. Ed eccoci insieme con la seconda ora del sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, il sabato del villaggio, come sempre il nostro villaggio globale, nel quale parliamo di un sacco di cose belle della vita. E potete sempre contattarci al 349-238-6666 via SMS o via WhatsApp, ma c'è anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola. Ma ora scopriamo i temi della seconda ora. I libri con la nostra Alessandra Tedesco, tanti consigli su misura, come sempre, e poi le letture del momento. Torna allo spazio dei consumi delle nuove tendenze con Maria Luisa Pezzali. Questa volta parleremo anche di mattoncini per giocare, ovviamente avete capito quali. Poi consigli per il fine settimana al cinema, ma sempre sulle grandi anticipazioni di questa stagione. Ce ne stiamo un po' occupando in questa apertura di stagione TV. Parliamo di serie. Bei tempi quando sognavamo una vita come quella di Carrie Bradshaw, tutta a tacchi alti, un uomo dietro l'altro, colazioni con le amiche senza ingrassare mai, bere Cosmopolitan, anche quelli senza mettere un etto. Non sono più gli anni di Sex and the City, ma torna tra gli altri in questa nuova stagione televisiva sarà Jessica Parker, l'attrice con un ruolo molto diverso. È molto attesa questa serie TV. Di questa e altre serie TV, anche al femminile, parliamo con la nostra Stefania Carini. Ciao Stefania! Ciao, buon pomeriggio! Super esperta che torna nel nostro sabato del villaggio. Allora, parliamo subito di Sarah Jessica Parker, perché è tanto attesa questa nuova serie che ce la riporta sullo schermo dopo anni. Divorce. Non ho capito se non sono più i tempi di Sex and the City, sì, per la TV o per noi, però facciamo finta che... No, per nessuno. Per nessuno. Soprattutto non per Sarah Jessica Parker. Assolutamente, perché la serie è molto diversa. Ecco. Ma è diverso proprio il tono. In questo caso lei è, come dire, una moglie sposata da diversi anni con due bambini, che improvvisamente dopo una festa a casa di amici dove dei due amici litigano in maniera molto surreale, diciamo ci scappa anche una pistolettata, decide che è ora di lasciare il marito perché la loro relazione è finita. C'è di mezzo anche un amante, però come al solito l'amante dall'altra parte non è che fosse molto d'accordo con questa idea di lei di lasciare il marito, perché insomma così diventano una classica coppia di amanti borghesi, e quindi lei si ritrova in questa terra di mezzo, perché di là ormai ha detto che voleva andarsene, di qua però non la vogliono, e anzi il marito dice: sai che c'è, adesso sì, divorziamo davvero, anzi ti metterò anche contro i figli. Ovviamente è tutta una commedia molto surreale, i toni sono... di quelli per cui ad ogni scena personaggi, come dire, sempre di più danno l'idea di essere un filino fuori di testa, soprattutto i comprimari, e questa forse è la cosa che l'avvicina di più a Sex and the City, cioè Sarah Jessica Parker è ancora, come dire, lo snodo un po' più simile a noi, ma attorno a lei ci sono dei personaggi meravigliosi. Il tono però è malinconico, ben diverso da Sex and the City, forse vicino alle ultime stagioni di Sex and the City. A parte il 9 ottobre negli Stati Uniti, ma subito su Sky Atlantic, perché l'attesa è talmente alta che non si può più aspettare. Bisogna andarle in onda praticamente subito. Sì, ormai è evidente che la programmazione funziona davvero solo se è condivisa subito, soprattutto su queste serie che circolano molto, come dire, a livello di hype, di chiacchierata su Twitter, i social, internet, non si aspetta più, e allora per ovviare al problema della pirateria è evidente che la messa in onda deve essere ormai per forza contemporanea, altrimenti si perde anche, come dire, il lancio di marketing pubblicitario che poi viene, certo, dall'America. Certo, e poi, detto tra noi, non ad alta voce, se la scaricano tutti, se non arriva subito. Questa settimana si è parlato tanto di serie TV che riscoprono le dive over 40, ma direi anche over 45 e over 50, perché forse più del cinema hanno la possibilità di avere anche degli ottimi ruoli, non solo Sarah Jessica Parker. Sì, diciamo, succede a Uma Thurman, succede a Jennifer Lopez, succede anche a Sharon Stone, premium di Mediaset ha lanciato queste tre serie, anche Eva Longoria, insomma, tornano con dei ruoli adatti a loro, finalmente dei personaggi femminili approfonditi, finalmente quello che il cinema non ci dà. Però a ben vedere anche i maschietti sono messi così, perché voglio dire, allora Dustin Hoffman ci torna con I Medici, certo, attesissima, Anthony Hopkins ed Ed Harris ci tornano con Westworld, che andrà su Sky Atlantic. Jude Law, che fa dei young pop, non è che poi, cioè, è young per essere un pop, diciamo, è young per essere un pop. Lui ha 44 anni, Uma Thurman ne ha 46, siamo lì, però diciamo che sulle donne chissà come mai sempre più effetto, ma in realtà la televisione funziona meglio anche sugli attori, per così dire, maturi. Maturità lunga, diciamo, da superati 35 e 40, perché semplicemente mentre il cinema ormai è dedicato molto al blockbuster o al film per famiglie, la TV mantiene una differenza di target, di nicchie, soprattutto sulla TV via cavo, la HBO, Showtime, così, per cui si permette di avere pubblici differenti, tanto magari gli adolescenti con serie più appunto più giovanili, tanto appunto serie più mature, quindi adatte ad un pubblico più maturo e quindi anche interpretate da attori più maturi. Ecco, c'è più differenza, se c'è più differenza è evidente che c'è posto per tutti, a differenza di quel che accade invece ormai al cinema. Abbiamo parlato di serie TV che arrivano subito in Italia anche sull'onda dei social, di quello che si chiama hype, del fascino che si alimenta in rete. Invece è arrivata con un po' di ritardo, ma mi pare con un buon successo, sempre su Sky Atlantic, The Affair. Tra parentesi, i titoli rimangono tali e quali e quindi abbiamo perlomeno la fortuna di non vedere titoli bruttissimi come è accaduto per anni al cinema. A te piace, sì, The Affair? A me piace molto, è stata forse la serie più interessante, ormai siamo alla terza stagione, quindi in America, quindi è uscita già credo 2 anni fa. È sicuramente una serie molto interessante perché raccontava una storia d'amore, una storia di tradimenti anche, attraverso più punti di vista, quindi più o meno quello che accadeva era lo stesso a questa coppia di amanti, sono tutte e due sposati, si incontravano e iniziavano una relazione, però naturalmente è il dettaglio che conta per il diavolo e conta per le storie ben narrate, quindi ognuno di loro due racconta la propria storia in maniera leggermente diversa, sono quelle differenze ad appassionare lo spettatore, perché svelano una psicologia differente, poi svelano che poi alla fine, insomma, tutti di fronte a qualcosa abbiamo, ognuno di noi ha la propria prospettiva e la propria idea anche all'interno di una storia d'amore, e per questo sono difficili. Stefania, invece la chicca, la serie che secondo te non dobbiamo perdere in questa stagione, quella che sta per arrivare, che magari tu hai già visto in anteprima, che cosa secondo te è il must? Forse tre. Westworld, che l'ho già citata, che potrebbe essere il nuovo Trono di Spade, potrebbe, wow, promette bene. The Crown, cioè la serie che andrà su Netflix da novembre sulla regina Elisabetta, quando viene incoronata, i primi anni del regno. Un grande melodramma storico, ma scritto divinamente da Peter Morgan, che già aveva scritto The Queen e The Audience, che è un play per il teatro. Già mi piace tantissimo. Per i reali, ed è una bella ossessione. Oggi potete trovare anche su Netflix la seconda stagione di Happy Valley, che è sempre una serie inglese, un thriller. Io sono molto affezionata ad Happy Valley perché secondo me è una scrittura per il grande pubblico, un grande thriller con un personaggio femminile appunto in là con gli anni, ma molto molto realistico e molto bello. E devo dire che questa serie della BBC è qualcosa di meraviglioso, perché è allo stesso tempo una scrittura per tutti, ma molto raffinate, con un gran bel personaggio femminile. Io ho preso appunti, la prossima volta ci vediamo davanti a un Cosmopolitan, Stefania, anche se non sono più gli anni serie TV, quindi sono gli anni di Sex and the City proprio. Ovviamente. Ecco. Grazie a Stefania Carini, alla prossima. Grazie a voi. Noi ci ritroviamo dopo il traffico. JP Morgan Asset Management vi presenta Il sabato del villaggio. Trecce gli occhi azzurri, e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano. Tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Perché la canzone del sole? Beh, perché un Battisti fa sempre bene il sabato pomeriggio e non solo, ma che secondo me ha anche qualcosa a che fare con i libri di cui parliamo oggi con la nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Copertina che gli ascoltatori non possono vedere, ma Marta Cagnola sì. Mare Nero. Iniziamo con questo libro veramente divertente e anche accattivante, Mare Nero, un romanzo di Gabriella Genisi pubblicato da Sonzogno. Forse qualcuno se la ricorderà, Gabriella Genisi, perché lei è una scrittrice di gialli ironici e la sua protagonista seriale è Lolita Lobosco. Perché mi piace tanto? Perché è ambientato a Bari. Ah, beh, un po' di campanilismo, giusto, un ci po' sta, nella ci mia sta. Città d'origine, no, veramente sono divertenti. Poi Lolita Lobosco è una commissaria sexy, intraprendente, fa dei pasticci nella sua vita privata, però è molto tosta sul lavoro. Stavolta deve indagare su un caso piuttosto misterioso. C'è un gruppo di amici che va in barca a vela un giorno al largo appunto delle coste baresi, fanno delle immersioni e una coppia di giovani fidanzati purtroppo muore. Si pensa a un incidente, in realtà c'è qualcos'altro, e poi scavando in questa indagine riuscirà a svelare insomma traffici illeciti di rifiuti, inquinamento ambientale, eccetera eccetera. Ma la cosa carina anche dei libri di Gabriella Genisi è che in questo Mare Nero ha creato una specie di crossover, cioè ci ha infilato a un certo punto un incontro con Montalbano, no. Ti giuro, è un incontro con Alice Allevi, l'anatomopatologa creata da Alessia Gazzola. E tra l'altro proprio questa settimana è andata in onda su Rai 1 la fiction ispirata ad Alice Allevi, libri di Alessia Gazzola, che ovviamente adesso è di nuovo in libreria con l'ultimo dedicato ad Alice Allevi. Insomma, tutto torna, mi sembra di capire. Ma mi piacciono molto questi crossover. Lo consigliamo alle donne, ma non solo. Allora, io lo consiglio sia a uomini che donne che hanno voglia di un giallo, perché comunque si tratta di un giallo, quindi che sono appassionati del genere, ma hanno voglia anche un po' di sorridere. Ma lo consiglio anche ai golosi, perché caratteristica dei libri di Gabriella Genisi e soprattutto di Lolita Lobosco, che è una gran bella donna, è quella di cucinare delle pietanze particolari. Quindi alla fine dei libri della Genisi ci sono sempre le ricette del commissario Lolì, perché lei a Bari accorciamo tutto, no? Quindi Lolì, allora, questa volta c'è il tegame di pasta al forno alla barese, te la consiglio. Le orecchiette pugliesi, vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Poi la focaccia di Lolita, che è una ricetta particolare, bisogna provarla. Quindi se comprate Mare Nero di Gabriella Genisi, vi cuccate un thriller, un giallo più che un thriller, una specie di noir. Sorridete e vi fate anche qualche ricetta pugliese. Tre al prezzo di uno, quindi anche per appassionati di cucina. Ma sì, dai, mettiamoceli dentro. A proposito di appassionati di cucina, vedo che hai un libro di cucina. Io adoro i libri di ricette, quelli con le belle fotografie. E già capisco dalla copertina, ecco, che è uno di quei libri con quelle belle fotografie. Io lo dico sempre e vi giuro, non mi pagano. La Guido Tommasi Editore, secondo me, è la casa editrice che pubblica i libri di cucina più belli dal punto di vista fotografico. Cioè te li mangi con gli occhi, puoi anche sfogliarli senza poi cucinare mai le ricette. Non fa niente, però hai goduto semplicemente della grafica, delle fotografie. Ho scelto questo di cucina indiana, scritto da, vediamo se lo pronuncio bene, Amandip Uppal. Non ti potrò contraddire. Fotografie di Lisa Linder, ed è appunto sulla cucina indiana. È una delle mie cucine, diciamo, etniche preferite. Lo sfoglio a caso. Curry di manzo con patate. La foto è meravigliosa. Poi, verdure e lenticchie. Sai che nella cucina indiana si usa tantissimo sia le verdure, certo, che le lenticchie. Ma certo. Le lenticchie samosa, poi le cheese naan. Oh, vedi, samosa con patate e piselli. Secondo me, guarda, potrei provarle stasera. Vuoi provare, ti cimenti già nella ricetta, ma poi ci dirai com'è andata. Cucina indiana, Guido Tommasi Editore, è bello consistente il libro. Prezzo? Prezzo 30 euro, e si costicchiano un po' questi libri. Magari come regalo, non siamo ancora in fase di feste, ne parleremo molto dei libri da regalare per le feste, però secondo me i libri di cucina sono sempre un belli, bel regalo. Ci stanno bene. Anche per un invito a cena, quelle cene in cui sai che chi ti invita ha già preparato tutto. Invito a cena invece che con delitto, con libro esatto, di cucina. Uno che se ti hanno già preparato tutto e non devi portare del vino. Brava, un bel libro, un libro. Brava, mi piace questa idea, mi hai dato una fantastica idea, guarda. Allora, ancora libri, ancora copertine davanti a te. Allora, se io ti dico Duccio Forzano, tu a cosa pensi, anzi a chi pensi? Penso subito a un grande maestro della regia televisiva italiana, penso a Fabio Fazio, con il quale ha lavorato a lungo, e però adesso Duccio Forzano ha intrapreso delle nuove strade e immagino che sì, quella ha scritto narrativa. Un libro, sentiamo il libro. Alla radio, copertina rigida, Come Rocky Balboa, scritto da Duccio Forzano, pubblicato da Longanesi. È un libro abbastanza autobiografico, insomma, sai, io una domanda che detesto fare agli autori, però insomma si capisce che c'è molto di Duccio Forzano, anche perché il protagonista si chiama Duccio. Beh. E cresce in una famiglia, il maggiore di tre fratelli. Purtroppo ha un'infanzia molto dura. Una mattina lui ha 11 anni, si sveglia e in cucina, sotto la bottiglia del latte, trova un biglietto di sua mamma che dice prenditi cura dei tuoi fratelli più piccoli. Lei è andata via perché si è innamorata di un altro uomo, e questi tre ragazzini rimangono con il padre, che insomma non è esattamente il padre ideale. E quindi perché questo titolo Come Rocky Balboa? Perché diciamo deve incassare e deve dare pugni nella vita, in qualche modo deve reagire. Inizia, naturalmente deve lasciare la scuola, fare tanti lavori, lavora in una carrozzeria, ma il suo sogno è diventare il regista, finché un giorno lui fa qualcosa da regista, ma piccole cose, gli arriva una telefonata e dice vorremmo parlare col regista Duccio Forzano. Lui pensa che sia uno scherzo, è raccontato nel libro, e invece era niente poco di meno che Claudio Baglioni, che gli chiedeva di fare il suo videoclip. Beh, una favola vera, una favola, una mi favola piace vera, molto. Una dimostrazione di coraggio, di come nella vita, insomma, a volte la volontà, la forza di volontà riesce veramente a far ottenere le cose. E lo consiglio, diciamo, dai 20 anni in su, uomini ma anche donne che hanno voglia di ritrovarsi in una storia anche molto cinematografica, raccontata in modo lui è un regista, voglio dire, Sava Sandir, quindi anche molto ritmata, che è una storia di rivalsa, come si può uscire da un'infanzia difficile e diventare qualcuno nella vita. Lo leggerò, prima però devo finire l'autobiografia di Bruce Springsteen, che ho già in questi giorni. Quella è uscita dopo tanta attesa e l'ho appena iniziata. Calendar Girl, allora ragazzi, ancora allora, lei. Io l'avevo detto che l'avrei letto, che avrei letto almeno il primo, avevo già detto cosa ne pensavo, che lo trovavo più gradevole delle 50 sfumature che mi avevano annoiato tantissimo, perché perlomeno questa ragazza che si pagava gli studi e pagava il debito del padre facendo da escort, esatto, perlomeno faceva ogni mese, pagava gli studi alla sorella e pagava il debito del padre facendo appunto la escort ogni mese con un uomo diverso, un uomo affascinantissimo diverso, perlomeno c'era la varietà, poi cambiava uomini, cambiava città, però ti confesso non ho letto uno alla fine, basta, non sono più andata avanti. Sì, adesso è arrivato il quarto e ultimo, Dio grazie, siamo all'ultimo. Quindi ottobre novembre dicembre perché hanno il sottotitolo Calendar Girl, l'autrice Audrey Carlan, pubblicato da Mondadori, hanno sempre il sottotitolo con i mesi. Ti dico che c'è un colpo di scena sensazionale, ma non ti posso dire quale, per chi naturalmente ha letto anche gli altri tre, e quindi sì, a dicembre succede qualcosa di interessante, che non è il Natale. Va bene, che non è il Natale, mi che non è molto. Il Natale. Vabbè, quindi consigliato inevitabilmente alle donne, alle donne. Quelle io che direi soprattutto alle donne dai 20 anni in su. Beh, certo, non iniziate con l'ultimo, se volete iniziare la saga di Calendar Girl dovete prendere prima gennaio, febbraio, marzo, c'è cioè il primo volume, certo, altrimenti quello che ho letto io. Sì, perché sennò non si capisce come si muove questo personaggio, eccetera. Lo so che volete arrivare alla sorpresa di dicembre, però ve li dovete cuccare tutti e quattro. Sono tentata di saltare il secondo e il terzo e di leggere. No, vabbè. Non si può. Dai, leggerò anche gli altri. Concludiamo con i ragazzi, direi, ragazzi, perché vedo una copertina disegnata, simpatica, carina. Bella, guarda, lei mi piace da morire. È una ragazza che scrive per ragazzi. Uh-huh. L'ho anche intervistata al Salone del Libro di Torino di un paio d'anni fa. Si chiama Bianca Chiabrando. Lei ha 16 anni, va al liceo e scrive, questo è il suo secondo romanzo, si intitola A noi due prof. La storia esilarante di un tragico anno scolastico, dall'autrice di Il caso terza di che era stato il suo primo romanzo, appunto, pubblicato anche questo da Mondadori. Lei ha veramente un'ironia che è superiore, secondo me, ai suoi 16 anni, e quindi è piacevole questo libro da leggere. È una storia naturalmente ambientata al liceo, contro un professore che insomma rende la vita impossibile ai ragazzi, però devo dire che ha una capacità di raccontare i personaggi, i suoi compagni di classe, i professori, eccetera, in modo così ironico, anche con una punta di sarcasmo, che veramente le fanno grande onore. Quindi Chiara Chiabrando, A noi due prof, lo consiglio ai ragazzi dalla prima media in su. Anche quindi scuole medie, non solo liceo. Sì, bene, sì, già dalla prima media si può leggere, assolutamente. Fantastico, grazie Alessandra. Appuntamento invece con Il cacciatore di libri? Per chi se lo fosse perso stamattina alle 6.30, per chi non riesce ad albeggiare, stasera alle 22 c'è la famosa puntata registrata la settimana scorsa al Salone Nautico con Marco Buticchi. Quindi insomma non ve la perdete, perché è un libro che mi ha colpito al cuore. Sì, eravamo tutti molto incuriositi la scorsa settimana. L'ascolteremo, grazie Alessandra. Baci a tutti. Il sabato del villaggio. Oh, allora un po' di messaggi al 349-238-6666. Allora, c'è un ascoltatore che mi dice: basta con il politically correct, faceva la puttana, cioè quella di Calendar Girl. In Italia si dice puttana, non escort. No, no, faceva proprio la escort. Non veniva pagata per fare sesso, se non nel caso in cui lei lo voleva, veniva pagata a parte. Quindi il politically correct non ha casa qui, era proprio un termine tecnico. Faceva la escort e decideva se fare sesso oppure no. È così, eh? Io non ho paura delle parole. E invece 349-238-6666, gli sms, l'ultimo è Lorenzo, il peggior programma di Radio 24. Lorenzo, ti abbraccio lo stesso, non ti preoccupare, il sabato arriva solo una volta alla settimana. E adesso è il momento dei consumi. Maestri costruttori, l'Or Business vuole porre fine al mondo come lo conosciamo, ma c'è ancora una speranza, quello speciale. Io lo so cosa pensate, è la persona meno qualificata per guidarci. E avete ragione. Sei troppo deludente, sotto tanti aspetti. Non sono quello speciale, sono uno come tutti gli altri. Hai le qualità per essere quello speciale, io credo in te. Robot, distruggetelo! Alò, sfigati! Ce la battiamo! Questo era un film del quale abbiamo parlato molto quando è uscito, perché ci ha divertito, perché aveva tanti spunti interessanti, Lego Movie. Ma perché torniamo a parlare di questo film? Forse perché torniamo a parlare di Lego, non lo so, chiediamo alla nostra Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Sì, beh, perché anche il mondo dei consumi, Marta, è fatto di storie. Certo, certo. E il file appunto che abbiamo appena sentito lo testimonia. Quella di oggi è una storia personale che si intreccia però anche con la storia di un vero e proprio prodotto cult, un mito appunto nel settore dei giocattoli. Lo abbiamo detto, parliamo di Lego, i mitici mattoncini, brand danese, lo sappiamo, conosciuto in tutto il mondo, quasi 100 anni di storia ormai. Il nome è la sintesi di due parole danesi, il significato è, lo sai tu Marta? Allora, l'avevo letto, poi sì, forse l'avevamo già parlato, Leg Got, che sì, sarà pronunciato in qualsiasi altro modo in danese. Bravissima. Che, io non ci avrei neanche provato. Sicuramente. No, l'ho letto proprio all'italiana. Okay. Che significa? Gioca bene. Fantastico. Beh, insomma, nomen omen. Lo spunto appunto per parlarne oggi è la storia che vogliamo raccontare. Un artista italiano è diventato in questi giorni il primo e unico Lego Certified Professional in Italia, cioè un costruttore professionista di Lego. In pratica un fan che ha trasformato la sua passione per il mattoncino in una vera e propria professione. Che meraviglia. Infatti, chissà come si fa, glielo chiediamo, come si fa a diventare professionista del Lego? Assolutamente. Riccardo Zangelmi, buon pomeriggio Riccardo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, come sei diventato costruttore professionale di Lego? È stata una passione che è ripresa all'età di 28 anni, dopodiché sono stato notato da Lego, ma poi comunque io ho fatto una richiesta specifica per diventare Lego Certified Professional e con mia grande gioia è stata accettata, insomma, sono riuscito a diventare, insomma, Lego Certified Professional. Perché tu sulla scia di questa passione hai fondato un'azienda che si chiama Brick Vision, che realizza proprio sculture in Lego per aziende ed eventi, è così? Sì, esatto, sì. La mia azienda è nata appunto perché, essendo Lego Certified Professional, ho aperto questa azienda che produce, che collabora, che è un business partner di Lego, e che collabora con Lego e con altre aziende italiane e nel fare sculture, modelli, mosaici ed eventi, tutti fatti con i nostri amati mattoncini Lego. Quindi io quando ero piccola avevo una passione, era quella di fare le case con il Lego, ma le case senza finestre. Io facevo le case senza finestre, non so, questa cosa mi divertiva moltissimo e mi faceva molto ridere. Ma immagino che tu, Riccardo, invece quando ti trovi davanti a un sacco pieno di mattoncini, non so, ti vengono delle idee in quel momento? Come funziona? Tu dici, potremmo costruirci questo? Oppure prima fai un disegno? Come si crea una scultura? Ma una scultura, sicuramente ci sono due modi in cui io lavoro. Che il primo è quello di una fatto tutto sull'immediatezza, cioè nel senso, vedo un pezzo, mi viene l'idea perché focalizzo quel pezzo lì e da quel pezzo nasce una scultura. Come per esempio in passato ho fatto degli omini fatti con i barili già fatti da Lego e ho fatto una formica fatta con delle fruste che sempre Lego. Ho usato dei pezzi inconsueti per creare dei personaggi e questo è un modo di lavorare che ho. Altrimenti io non faccio nessun disegno, però ho una visione nella testa, lo vedo già finito e inizio pian pianino ad attaccare dei pezzi e poi modifico modello, tolgo, aggiungo per arrivare al risultato finale che è la scultura finita, insomma. Ma dacci un'idea, quanti mattoncini usi per una tua scultura tipo? Ma una scultura tipo dipende, le più piccole comunque più o meno anche di 40-50 centimetri hanno almeno 2-3.000, 4.000 pezzi, dipende, poi per arrivare anche a sculture medie da 20.000, 30.000, quelle molto grosse da 200.000 pezzi, 300.000 pezzi, sì. Ma visto che lavori anche su commissione, qual è la cosa più assurda che ti hanno chiesto di costruire con il Lego? Ma arrivano un po' di mi chiedono di fare delle astrali, poi ci sono cose che faccio, che altre cose che insomma non è il mio range, per cui mi chiedono di fare un mega castello, ok, ci sta perché ne ho sempre fatti quando ero ragazzino, però adesso come adesso non è quello il mio, non faccio quello, preferisco fare sculture, cioè come può essere anche un fiore, per esempio una scultura di un fiore, di un vaso, una scultura di un uomo, di tante cose, insomma, si possono fare. Sicuramente a volte sì, mi arrivano delle richieste che non sempre riesco a soddisfare perché sono anche molto strane alcune, insomma. Non indaghiamo oltre. Esatto. Sì, non indaghiamo. Il tuo primo Lego, Riccardo, qual è stato il tuo primo Lego? Il mio primo Lego è stato un set dello spazio di quando, degli anni 90, perché quando poi ero ragazzino erano gli anni 90, era un Lego Space. Questa è un'astronave Lego Space degli anni 90, me la ricordo ancora, bianca e blu, e insomma, questo è stato proprio i primi amori di quando ero ragazzino, Lego Space. Insomma. Ricordiamo anche che siete 14 Lego Certified Professional in tutto il mondo, siete in contatto tra voi? Sì, sì, assolutamente, io sento spesso i miei colleghi, si parla, ci si danno informazioni, ci si consulta, a volte per fare degli eventi, per fare delle collaborazioni, cioè, insomma c'è un bellissimo rapporto, un gruppo molto stretto, molto unito, essendo così pochi, molto bello, molto affiatato, un gruppo molto affiatato. Io penso che molti bambini in questo momento stiano sognando di fare questo da grande. Il lavoro del futuro. Mi piace veramente molto. Grazie Riccardo, grazie. Ciao. Riccardo Sangemi, scultore di Lego, fantastico, grazie Riccardo. Grazie a voi, buona giornata. Beh, questo è già un ottimo spunto, però torna anche in questo Sabato del Villaggio, non l'avevamo ancora sentita quest'anno, quindi le diamo un bentornata nei nostri sabati. Caloroso. Un calorosissimo bentornato a Cristina Lazzati, ciao Cristina! Ciao a tutti, con ben i tuoi... ritrovate! Fantastico, con tutti i tuoi consigli e tutti i tuoi spunti che trovi da ricerche, da tutti i tuoi studi in fatto di consumi, questa volta so che ci hai portato una ricerca che poi ci può suggerire tanti spunti interessanti. Assolutamente sì, Altro Consumo è appena uscito con la sua classifica, siamo credo alla 28ª edizione, quindi una classifica storica sui prezzi dei supermercati, e non solo dei supermercati, degli ipermercati, dei discount e quant'altro. Quindi ha fatto una classifica, ma partiamo col dire che i consumi medi delle famiglie italiane si aggirano sui 30.000 euro e di spesa ne va, se sei singolo, sui 4.000, se sei in coppia su 6.500, e coppie con due figli arrivano quasi a 9.000 euro, 8.572 euro. Ma la cosa interessante è quanto si può risparmiare facendo la spesa in maniera oculata. Quindi se si passa ai prodotti private label, che sono quelli a marchio della catena, quindi quelli di solitamente almeno una fascia che hanno o un nome di fantasia o il nome proprio dell'insegna, il risparmio che un single può fare è di 1.300 euro, per arrivare alla coppia con due figli che risparmia quasi 3.000 euro. Quindi, non è poco. Che non è affatto poco. Se poi si decide di andare all'hard discount, il risparmio aumenta di smisura, quindi si arriva alla coppia con due figli che da 8.572 passa a 4.621. Quindi attenzione al portafogli, perché volendo si può risparmiare. Nella classifica, che quest'anno è un po' cambiata, nel senso che fino adesso valevano tutti, anche le catene un po' più piccole e le catene non proprio in tutto l'arco nazionale. Invece quest'anno, per quello che riguarda le marche, quindi le grandi marche, da, facciamo due nomi, di Xan, Dash, eccetera, eccetera, Lavazza e così via, ha considerato solo le catene presenti in più di 5 regioni italiane. E a vincere, noi siamo basati a Milano, è Esselunga, seguita dai Persinzi. E così, menzionando Esselunga, ricordiamo anche il fondatore, Bernardo Caprotti, che è scomparso ieri. Invece Cristina, per quanto riguarda le altre marche? Se andiamo sulle marche private, quindi sulla marca dell'insegna, la più conveniente d'Italia, dove invece non hanno più considerato solo quelli di 5 regioni e più, eccetera. Uh-huh. Quindi torniamo alla classifica, alla metodologia utilizzata negli ultimi 30 anni, a vincere è U2 Supermercato, seguito dall'ipermercato Conad e ancora da Conad nella versione Superstore. Quindi se avete vicino U2 o Conad, guardate i prodotti di marca, perché del distributore, perché lì si risparmia di sicuro. Infine, anche nel discount vince ancora una volta una catena totalmente italiana, perché vince Eurospin al primo posto, seguito da Lidl e da Penny Market. Queste sono le classifiche in generale. Tra l'altro, Altro Consumo punta un po' il dito sul fatto che alcuni prodotti di marca hanno dei prezzi, come dire, che variano in maniera veramente pesante. Facciamo qualche esempio. Il prezzo minimo al litro della Pepsi Cola la troviamo all'Ipercoop dell'Aquila 0,38, mentre nel Carrefour di Torino viaggia a 1,05, quindi siamo al 174% di differenza. È parecchio, direi. Ma non è solo nord e sud, perché ad esempio per la mozzarella Santa Lucia della Galbani il prezzo minimo lo troviamo a Varese in un Famila, mentre il prezzo massimo dobbiamo andare ad Ancona. Quindi l'Italia... non è detto appunto che a sud si spenda meno, a nord si spenda di più, in linea di massima sono veramente politiche della catena. Se mi posso permettere però un suggerimento a tutti quelli che ci ascoltano, non è solo il prezzo che fa il prodotto, perché chiaramente la qualità, la convenienza, la convenience, come la chiamiamo noi che ci occupiamo di retail, di punti di vendita, cioè il fatto che sia comodo, che si faccia una spesa veloce, che ci siano dei servizi, chiaramente tutto quello poi rientra anche nel prezzo. Se voglio il supermercato sotto casa che mi fa i piatti pronti e a cui posso lasciare la lavanderia e che poi ha un assortimento di freschi che mi porto a casa alla cena e faccio bella figura, chiaramente andremo a pagare qualcosina in più per tutto il resto, per la spesa quella normale e, come dire, un pochino più basica e banale. Quindi i prezzi va bene, però teniamo conto anche del fatto che oggi i nostri supermercati, le nostre catene stanno lavorando molto bene anche per offrirci più servizio, e in questo caso tra convenienza e convenience rimane a noi consumatori decidere in quel momento, in quel giorno, a chi affezionarci di più. Sempre più scienziati della spesa, Marta. Bisogna prepararsi. Sì, bisogna leggere le classifiche e ascoltare Radio 24. Ascoltare Radio 24 e poi analizzare tutte le nostre abitudini, che però è divertente. Esatto, almeno mi quello. Piace anche quello, mi piace moltissimo. Grazie, bentornata Cristina Lazzati, al prossimo sabato. Grazie a voi. Grazie anche a Maria Luisa Pezzali, l'appuntamento è invece con te domani. Sì, perché bisogna non solo ascoltare il sabato del villaggio, ma anche essere a vere la domenica alle 22. Al prossimo sabato. Ciao, Maria Luisa. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta il sabato del villaggio. Ciao, vieni, seduto. Vedi, beh, questa città si regge sull'ego. Io sono Bobby. Bonnie, vieni qui un attimo. Bonnie, questo è mio nipote, Bobby. Howard ha vinto 2 Oscar per il soggetto. Wow, congratulazioni. Grazie. Non mi conosce nessuno, sono uno scrittore. Benvenuto a Hollywood. Ciao, bello, ti sei già annoiato? Beh, mezzo annoiato e mezzo affascinato. Mio fratello Ben ha un nightclub, mi ha chiesto di aiutarlo. Quando lo saprai? Vediamo se il proprietario lo cede, noi cerchiamo di persuaderlo. Se chiedi con gentilezza, la gente ti ascolta. Vita è una commedia scritta da un sadico che fa il commediografo. Uno dei film più attesi della stagione arriva subito, Woody Allen. Non so neanche se chiedere al nostro super esperto se vale la pena o meno andarla a vedere, perché insomma Woody Allen è Woody Allen. Buonasera Franco. Ciao Franco. Ciao, allora, ciao Marta. Andiamo a vedere questo Caffè Society. Non darlo così per scontato, no. Perché recentemente Woody Allen ci ha alternato momenti belli e momenti meno belli. Penso al film su Roma, che volevo buttarmi giù dalla poltrona solo che era troppo vicino al pavimento. E... però dai, va sempre visto, anche per essere vero, un filino deluso. Assolutamente, però purtroppo negli ultimi anni, ma devo dire che però io ho trovato anche film molto belli negli ultimi anni. Per esempio a me Midnight in Paris è piaciuto molto, mi era piaciuto molto anche Blue Jasmine, ecco, però... Quindi questo in una scala da Roma a Blue Jasmine? No, allora qui siamo verso Blue Jasmine, assolutamente, ecco. E soprattutto siamo in un Woody Allen... che ha la delizia del tocco. Qualcuno ha scomodato un paragone che secondo me è incredibile, ma se ci pensi ci sta, con Lubitsch. Cioè il Lubitsch touch, cioè il grande maestro della commedia della brillante americana in bianco e nero, perché qui veramente c'è uno stato di grazia, di scrittura, di sceneggiatura, di direzione degli attori. Woody Allen è diventato sempre più anche un grande direttore di attori e Jesse Eisenberg qui è strepitoso. Se chiudi gli occhi vedi Woody Allen, assolutamente. Ma anche Kristen Stewart, io l'ho trovata fantastica. Gli ha tirato fuori la luce, lei che è un animale del buio, se vogliamo, un po' Kristen Stewart. Invece Woody Allen ha saputo tirare fuori quell'aspetto un po' più romantico, se vogliamo. Quindi davvero una commedia deliziosa su questo ragazzo che vorrebbe lavorare a Hollywood, lei del Bronx, va dallo zio, che è un altro grandissimo, in questo caso Steve Carell, va dallo zio, si innamora della donna sbagliata, o forse di quella giusta in un momento sbagliato, chi lo sa, e da quel momento in poi la vita è tutta una grande commedia degli equivoci, in cui Woody Allen riflette molto anche sulla sua età, sulla sua stagione della vita, fatemi dire anche sulla morte. È veramente un film da cui si esce rinfrancati, e quindi questo davvero tanto, insomma. E ne abbiamo bisogno. Invece ti voglio chiedere di questo Ben-Hur, vediamo ecco, fammela adesso invece qui la domanda qui serve andare a vedere perché in questo periodo di remake spericolati andiamo a vedere Ben-Hur. Ma guarda Marta, hai ragione a definirlo spericolato, è proprio centrato, perché rifare Ben-Hur ci vuole tanto coraggio, ci vuole tanta forza. Non lo trovo un esperimento, come dire, che non andava fatto, perché oggi i mezzi a disposizione del cinema, soprattutto di un regista come Timur Bekmambetov, che è uno che maneggia molto bene lo spettacolo cinema, sono tanti, sono mezzi sempre più importanti. Tanto per dire, la scena delle bighe è strepitosa in questo film, certo, come lo fu nel 59 in quel film che con altri mezzi. I mezzi che il cinema ci ha dato oggi rispetto ad allora sono proprio quelli che aiutano lo spettacolo, che aiutano a girare in un certo modo. Poi però c'è il cinema, poi però c'è il resto. E il resto Bekmambetov se l'è un po' dimenticato per strada, il resto è un po' annacquato. Sicuramente quel peplum ci rendeva di più un po' questa grandeur romana. Questa volta le cose non vanno così. È un film d'azione, forse la scommessa è persa, però non è detto che fosse una scommessa che non andava fatta. Sono d'accordo. Una delle rivelazioni, forse la rivelazione della Mostra di Venezia, Indivisibili, ne abbiamo parlato tanto, esce finalmente al cinema. Esce finalmente al cinema. Io voglio anche dire ai nostri ascoltatori che alla Rosa Purpura avremo un'intervista, una lunga intervista con il regista Edoardo De Angelis, perché io ho adorato questo film. Anch'io. Devo dire, l'ho trovato anch'io. Un film, forse il più bel film italiano di Venezia, ma uno dei più bel film italiani degli ultimi tempi in generale. Perché ha dentro tutto, ha dentro letture che vanno bene per tutti i pubblici, ha una grande mano di regia che sposa Gomorra con Almodovar in un certo senso, ha una fotografia livida e ha queste due ragazze che sono due attrici straordinarie. Io ho mandato la nostra collega e amica Piera Ceci a vederlo con la figlia adolescente, gliel'ho dato proprio come compito, e effettivamente secondo me è un film che con i ragazzi sopra una certa età potrebbe essere molto interessante. Sì, perché poi è un film che ha un'universalità, cioè al di là della storia di queste due gemelle siamesi attaccate dalle parti dell'anca, quindi non una malformazione, diciamo così, decisiva per la loro vita, però costrette a star sempre insieme, i cui mondi si separano anche proprio come caratteri nel momento in cui si possono separare. Capiscono che è tutta una frottola quella che i genitori gli hanno sempre raccontato, che dovevano stare per forza indivisibili. È una frottola perché così loro guadagnavano tanti soldi, perché loro sono due splendide cantanti, e invece adesso le strade potrebbero davvero dividersi. Però c'è un'universalità nel messaggio, che è quella che tutti noi viviamo una vita che sta dentro un binario dal quale è difficile separarci e dal quale talvolta invece separarsi è rischioso, però può servire. Quindi direi che davvero questo per me, insieme a Café Society, per motivi molto diversi, è il film della settimana. Quindi due film sì, un film gnè. Per tutti i consigli comunque ci sentiamo con te dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea. Ci sentiamo dopo, ciao.